Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, io dico la mia fesseria. Se anziché nel giro di 6 giorni il Milan avesse trovato il Barcellona non ai quarti per l'appunto ma agli ottavi, quando tra andata e ritorno passano quelle 2, anche 3 settimane, io credo che qualche chance in più l'avrebbe avuta, perché senza ricambi a centrocampo, nel senso che quella di rinunciare a Muntari nella lista Champions secondo me è stata una fesseria, senza altri infortunati che dessero appunto la possibilità di avere alternativa a metà campo, al Milan sono mancate innanzitutto le forze, perché pur avendo giocato un primo tempo di grande organizzazione tattica in cui ha chiuso bene, quasi sempre bene, le linee di passaggio principali, è ripartita in maniera sempre, se non pericolosa, almeno inquietante per il Barcellona, però era la terza partita in 6 giorni, esattamente come il Barcellona, con la differenza che quella di mezzo per il Barça è stato un impegno contro l'Athletic Bilbao, ma il Catania invece al Milan ha tirato il collo in una maniera addirittura ossessiva, proprio sul piano fisico, sul piano atletico, e quindi a gioco lungo quella secondo me è stata la principale ragione per cui il Milan non è riuscito a fare l'impresa, perché è chiaro che sarebbe servita un'impresa, ed è altrettanto chiaro che il Barcellona era superiore sulla carta, e poi ieri sera lo è stato anche sul campo e in maniera abbastanza evidente, anche perché il problema, uno dei problemi principali quando giochi contro una squadra così, è che non puoi regalare errori, e il Milan nel primo tempo ne ha regalati 2, uno grave, Mexes, quando si è fatto strappare palla da Messi, e da lì è nato, sia pure poi con una carambola impazzita, è nato il primo gol, e poi quella trattenuta di Nesta. Io dico che è un peccato per il Milan, perché questo è un Barcellona al 60-70%, non di più, non è più il miglior Barcellona, e lo dimostra la classifica in Liga. Non lo è stato nemmeno in questa doppia sfida, pur avendo appunto dominato sul piano dei numeri. Il miglior Barcellona che io ricordo e che risale in fondo a poco tempo fa, e che magari tornerà a manifestarsi dalle semifinali in avanti, il miglior Barcellona era quello in cui Messi aggiungeva le sue magie come delle candeline su una torta. Ieri sera senza Messi il Barcellona non sarebbe, a parer mio, andato veramente da nessuna parte. Sentiamo i commenti dei protagonisti di ieri, proprio per ripassare un po' quanto è accaduto, comprese i lamenti del Milan per un calcio di rigore, a cui in effetti in Italia non si è abituati, no? Visto che le nostre aree sono dei far west in cui è possibile giocare a catch trattenendo gli avversari, mentre invece in Europa e nel mondo, magari qualcuno con la memoria un po' più lunga ricorderà Panucci al Mondiale 2002, quella partita con la Corea, tutti sbalorditi, scandalo, vergogna di che? La vergogna semmai venne dopo con quell'arbitro, semmai, ma non certamente per la trattenuta di Panucci, molto più plateale peraltro di quella di Nesta ieri sera, su quel rigore che poi orientò la partita. Dicevo, il ripasso di ieri cominciando da Allegri. Ma dispiace, perché era un momento dove loro stavano facendo poco e mancavano 3 minuti alla fine del primo tempo. Purtroppo sono stati 2 rigori, uno diciamo regalato da noi e l'altro quasi regalato dall'arbitro, però la squadra ha fatto quello che ha potuto, abbiamo fatto discretamente bene nel primo tempo, abbiamo sbagliato molti ultimi passaggi secondo me, dove avevamo lo spazio per andare dentro. La sensazione era che dopo l'1-1 avessimo la possibilità di poter passare il turno, perché Barcellona sicuramente aveva un po' di pressione addosso, si vedeva anche nello sviluppo del gioco, soprattutto quando riuscivamo un pochino a pressare un pochino di più, non riuscivano bene a uscire, e poi nel male dopo il 3-1 è diventato tutto più facile, però credo ai ragazzi che non ci sia da rimproverare assolutamente niente. Sì, è vero comunque quello che dice, al di là del rigore, è vero quello che dice Allegri, e cioè che dopo l'1-0 e ancora prima del pareggio di Nocerino ci fosse la sensazione che il Milan qualcosa poteva fare e la vita gliela poteva complicare. C'è riuscito, l'azione del pareggio è bellissima, con quel doppio dribbling di Robinho e poi l'assist di Ibrahimovic a Nocerino. Si è visto sia che il Milan era in grado di produrre un'azione d'attacco di qualità, sia che la difesa del Barcellona di fronte ad un attacco di qualità non era poi così salda. Io ho letto dei voti bassi a Piqué, non sono assolutamente d'accordo. Piqué è tornato, mi pare, sui suoi livelli prima di infortunarsi nel finale, ma che i movimenti e i filtri non funzionassero, Xavi non era certamente nella sua miglior serata, proprio dal punto di vista della regia, non tanto offensiva quanto della regia di posizionamento sul campo, no? Di queste pedine che come in una scacchiera perfetta si dispongono a memoria. Oggi è una giornata in cui credo, anzi mi segnala il centralino che gli interventi si stanno già affollando, e quindi di questa partita e poi di altro ancora, perché non è soltanto questa in scaletta, chiacchiereremo insieme. Adesso comincio a leggere alcuni dei messaggi che oggi davvero piovono. Giusta l'osservazione su Panucci, scrive Franco da Milano, noi non impareremo proprio mai, basta lamentarsi, Nesta fa fallo. Poche chiacchiere, il Barcellona ha sbagliato 4 gol fatti col giocatore solo davanti al portiere, scrive Giuseppe. Sì, però ha una all'inizio con Messi, ma poi le altre a partita praticamente chiusa, quindi ci andrei piano. Invece di parlare dell'arbitro, Allegri dovrebbe fare mea culpa per aver perso Thiago Silva contro la Roma, scrive Lori da Milano, e tutti i torti non li ha. Poi arriveremo anche al caso Pato. Un altro scrive invece: se i catalani devono vincere per forza la Coppa lo dicessero prima, e questo credo sia un intervento ispirato dall'intellettuale Ibrahimovic, che andiamo a sentire immediatamente. Mi dispiace tanto perché non è andato bene, eravamo in dentro partita fino a 1-1, poi hanno dato un rigore che tutti parlano, dai, non devo anche spingere per questa cosa, però ancora non capisco perché ha dato. Però posso dire anche, capisco più Mourinho perché si incazza quando viene qua, che secondo me non è giusto. Secondo rigore per loro poteva dare anche a me. Prendiamo questa partita con rabbia e tanto confidenza, fiducia per prossima partita. Facciamo tutto per vincere Scudetto, questo è sicuro. La differenza tra il Milan e il Barcellona, scrive Mauro, non sta soltanto nel numero di tiri in porta, ma anche nel fatto che nessuno di loro aveva fiatato per il rigore non dato a Milano, e questo è oggettivamente vero. È vero perché rigore e tre quarti non dati a Milano aveva parlato la stampa spagnola, ma credo non aveste sentito un accento, io perlomeno non l'ho sentito e non l'ho letto, né da parte di Guardiola né da parte di giocatori del Barcellona. Questa effettivamente è una signora differenza, ma noi siamo, come ben sappiamo, un altro paese. La nostra prima chiave di lettura, di qualsiasi partita si tratti, è sempre assolutamente quella arbitrale. Quella è la prima. Poi, una volta che uno ha scaricato tutte le colpe o tutte le responsabilità sull'arbitro, poi dopo da lì in avanti si comincia a ragionare, e allora magari si può anche riconoscere che eccetera eccetera. Un paio di notizie prima di arrivare al primo intervallo, che sono, una è questa strana, direi quasi incredibile, trasferta che il Cagliari ha ufficializzato a Trieste, cioè giocherà da Cagliari a Trieste, non è esattamente un viaggetto da poco, ma insomma il Cagliari per ragioni di stadio, per ragioni di vertenze con il comune, giocherà al Nereo Rocco di Trieste le partite che restano da qui alla fine del campionato. Comincerà sabato, il sabato di Pasqua, con Cagliari-Inter. Le altre in programma sono Cagliari-Catania il 15 aprile, Cagliari-Chievo il 29 e Cagliari-Juventus del 6 maggio, che potrebbe anche essere una partita decisiva per il titolo. Questa era una. L'altra notizia di giornata, non da poco, è che l'Alta Corte di Giustizia del CONI ha confermato la radiazione per Luciano Moggi, Antonio Giraudo e Innocenzo Mazzini. L'ex direttore generale e amministratore delegato della Juve e l'ex vicepresidente della FIGC avevano presentato ricorso contro le decisioni dei primi due organi di giustizia sportiva. La sentenza dell'Alta Corte del CONI è definitiva. Il Milan è abituato troppo bene con gli arbitraggi italiani, scrive Enzo. Non è il Milan, sono tutte le nostre squadre che sono abituate troppo bene con gli arbitraggi all'italiana. Avete presente quelle commedie, no? che vanno in scena ogni domenica su ogni campo? Quelle commedie per cui sta per partire la punizione, sta per partire il calcio d'angolo, ci sono 2, 3, 4 coppie avvinghiate, si tirano, si mettono le mani sugli occhi, alzano i gomiti, ne fanno di ogni colore, le maglie si allungano, che fa spavento. E l'arbitro cosa fa invece di decidere in quei casi? Non decide, e cioè fischia mentre parte la palla o fischia un attimo prima che parta, e avanti col fervorino, no? Ci sono degli specialisti tipo Rizzoli, avanti col fervorino, bello, educato, responsabile, ragazzi, mi raccomando, eccetera. Allora uno dice, beh, fantastico, li ha avvisati che, insomma, se continuano così, o è rigore, o è fallo per l'altro, o è espulsione, insomma, è qualcosa del genere. Assolutamente no, la palla riparte, la commedia ricomincia esattamente come prima e va bene, e va tutto bene, al massimo si fischia poi un fallo di confusione, no? Che è quello che serve. Scrive Paolo Casarin sul Corriere della Sera di stamane, e mi sembra un parere leggermente autorevole, commento di ieri sera: capita allora alla fine del primo tempo, sulla battuta di un calcio d'angolo, che Nesta, pur disturbato da Puyol, il cui blocco viene considerato veniale dall'arbitro, insista a lungo nel trattenere Busquets fino a trascinarlo a terra. Rigore e giallo a Nesta. In Italia queste decisioni così severe in area non si vedono, ma all'estero questo è calcio di rigore. Non la pensa così Nesta, evidentemente, che è il diretto interessato, e sentiamo anche lui ai microfoni del dopopartita. No, io penso che potevamo fare un pochino meglio nelle ripartenze. Abbiamo visto che siamo ripartiti qualche volta, abbiamo fatto gol. Se con loro ogni tanto ti fa qualche ripartenza e metti un po' a paura, credo che puoi portare a casa qualche risultato. C'è stato un momento della partita che non siamo più riusciti a ripartire bene, loro anche un po' fortunatamente erano tra di gol, ma ne potevano fare altri. Barcellona al Barcellona, non puoi sbagliare niente. Ah, lì subito un blocco, l'ho tirato un po', ma prima che partisse, io almeno penso dal campo, forse mi ricordo un po' così, prima che partisse la palla ha fischiato il rigore. Poi già ne ha dato uno, dico non può fischiarne un altro, ha fischiato un altro. E questo era un Nesta, mi pare, assai più sereno di Ibrahimovic, no? Forse perché non ha mai avuto la fortuna di essere allenato dal profeta. Gigi da Bergamo, buongiorno. Sì, buongiorno, Garanzini. Dica. Volevo farle due domande. Allora, la prima, ho sentito ieri che parlavate con Nico degli esteri sul fatto del Milan che aveva possibilità di passare. Però ho visto stamattina che prima è iniziata la trasmissione, cercavi di trovare l'alibi per il Milan. Non è semplicemente meglio dire che ha meritato il Barcellona ieri, la prima. E sì. La seconda riguardo alla partita dell'Inter a Cagliari, che si è spostata a Trieste. L'Atalanta in questo caso non potrebbe contestare la partita di domenica a Cagliari? Grazie, l'ascolto per radio. L'Atalanta non potrebbe contestare la partita di domenica a Cagliari? Io dico, innanzitutto si gioca sabato e quindi già per questa ragione no. Poi non capisco perché l'Atalanta dovrebbe contestare la partita di domenica, cioè quella che ha giocato e perso domenica a Cagliari. Ma, Cagliari non ha ancora, si è giocato su un campo regolare, su un terreno regolare, le due pere che l'Atalanta ha preso erano regolari, quindi non capisco il fondamento. Lei ha anche equivocato su quello che dicevo io all'inizio, almeno per il mio, perché ha parlato di alibi. Io non ho parlato di alibi, ho cercato delle spiegazioni, nel senso che il Barcellona sia una squadra superiore al Milan lo sanno i milanisti per primi, con un Barcellona al 60-70% il Milan avrebbe forse potuto, per quello che si è visto da parte di un Barcellona, ripeto, non certamente al suo meglio, avrebbe forse potuto avere qualche margine se avesse avuto dei tempi, se avesse avuto dei tempi di recupero superiori rispetto a quelli che invece ha avuto. Vale anche per il Barça sto discorso qua, perché non è che Xavi, Iniesta, Puyol soprattutto sono più dei bambini, quindi anche per loro 3 partite in 6 giorni sono troppe, partite di questo livello. Ma per gli Ambrosini, per Iniesta, per i Seedorf soprattutto, si è visto che sono un po' più che troppo, no? Perché evidentemente non sono più in grado di reggerle. E a proposito di Seedorf e di civiltà di stadi, non so se avete notato l'applauso, se qualcuno ha colto l'applauso che Seedorf ha ricevuto al momento, pur avendo giocato abbastanza male, pur avendo dato solo quello che poteva, che ha ricevuto al Camp Nou, che ha riconosciuto, insomma, che riconosce in Seedorf un vecchio campione del calcio, e quindi gli ha reso omaggio applaudendolo quando è uscito dal campo, e nonostante Seedorf sia stato anche un giocatore al Real Madrid nel suo passato meno recente. Roberto, Roma, buongiorno. Sì, buongiorno, mi sente? Certo. Allora, io volevo fare una considerazione, io amo il calcio e do piena ragione alla sua considerazione che il Milan potesse fare di più. Se ci ricordiamo i mondiali dell'82, quando noi vincemmo contro l'Argentina e contro il Brasile, noi vincemmo perché c'era un Gentile che annullò Maradona e annullò Zico. Io non capisco come mai si applichi la zona demenziale quando si gioca contro un Messi che è l'80% del gioco del Barcellona. Un grosso marcatore, un tipo Gentile che stesse su Messi ma a uomo, col fiato sul collo, secondo me poteva risolvere la partita. Roberto, perché Messi ha sempre 10 metri, quindi se Messi controlla la palla, una volta che l'ha controllata è finita. Roberto, io cioè, credo che chiunque queste domande se le ponga, però facendo alla domanda facendo seguire alcune riflessioni, no? Primo, è cambiato il regolamento del gioco del calcio. Oggi Gentile con quel tipo di marcatura non finirebbe il primo tempo con nessun arbitro europeo, mondiale, credo neanche italiano, però insomma, certamente con gli arbitraggi di oggi non finirebbe non la partita ma il primo tempo. Ma questo non vuole invalidare quello che Gentile faceva allora, sia ben chiaro, si giocava con altri regolamenti e questo mi sembra evidente ed è la prima cosa, secondo me è anche la decisiva, perché se non lo so, Mourinho ci ha provato a marcare nelle sfide, in particolare dello scorso anno, ma anche già in due sfide di quest'anno, ha provato a metterci Pepe a tutto campo, a marcarlo, a braccarlo, a menarlo, ma menarlo mica da ridere, compreso passeggiargli su una mano quando Messi era a terra, eccetera, eccetera. Quindi, ottenendo che risultato? Facendo diventare selvaggia la partita, sputtanandosi, perché a Madrid i madrileni per primi non hanno apprezzato questo tipo di atteggiamento, perché là sono per il calcio e per il rispetto del campione, la marcatura certo, ma nel rispetto del campione, e non è andato da nessuna parte, perché Messi si è eccitato ulteriormente e ha segnato al Real Madrid una quantità industriale di gol, cosa che per esempio con le italiane non gli riesce, perché in 8 partite giocate contro squadre italiane le statistiche dicono che Messi finora ha segnato 3 gol, ma tutti su rigore, tutti al Milan e tutti su rigore in questa stagione. Enrico, Udine. Sì, buongiorno dottor Garanzini. Io volevo esprimere volevo chiederle un parere su Alessandro Nesta, non tanto in riferimento alla partita di ieri sera, perché secondo me ha dimostrato che non a 35 anni, ma anche a 40, 45, a 50, è un difensore infinitamente superiore a Mexes. E già l'anno scorso ho sofferto da milanista nel vedere Pirlo andare a vestire la maglia bianconera, ma ho compreso le ragioni societarie. D'altronde non si possono paragonare 4 anni di contratto a quelle cifre con un rinnovo annuale, però spero che, dato che anche di Nesta si parla di un possibile futuro in bianco-nero, spero che veramente la società ci ripensi, anche dopo aver visto cosa ha fatto ieri sera in campo. Non so cosa ne pensa lei. Io penso che tutto dipende dall'integrità fisica. Io penso che Nesta sia stato uno dei più forti difensori italiani del dopoguerra, però è stato anche tra i difensori uno di quelli che nel dopoguerra hanno avuto più guai, più problemi fisici, più incidenti, che sono stati più sfortunati, e questa è una valutazione che va fatta anche da parte di una società che pure lo stima e lo ritiene imprescindibile, come sta facendo il Milan. Anche questo va tenuto presente. Marco Milano, buongiorno. Salve Garanzini, io sono un tifoso juventino, però premetto che ieri tifavo il Milan sia per motivi che potevano stancarlo che per motivi che è una squadra italiana. Però ho due osservazioni. Uno, che secondo me quello non è calcio di rigore, perché anche Pujol fa fallo, quindi è stato un trattamento non pari su quell'azione. Poi è vero che i falli, comunque le spintonate in area all'estero, le sanzionano. Secondo, il Milan non può pensare di andare a giocarsi col Barcellona giocando in casa una partita difensiva. In casa bisogna vincere, infatti l'Inter aveva vinto 2 anni fa ed è riuscito a passare, perché se sperava che andava al Camp Nou a camminare, che poi ha camminato, era impossibile che passava il turno. Va bene. Allora chi ci manca? Ci manca Guardiola, perché mi sembra giusto, anche interessante ascoltare anche il parere dell'altra parte in causa. E quindi Pep Guardiola. Quando uno prende per la maglia il rigore nell'area. Questo me l'ho insegnato da piccolo, ma forse non si fischia, ma quando si tiene della maglia è il rigore. La partita, siete muto con l'1-1, voi siete italiani, a volte faccio fatica a noi non valutare quello che è il Milan, quello che voleva riuscire a fare della chance. La semifinale dell'Inter 2 anni fa abbiamo avuto pochissime palle gol, in questa volta abbiamo avuto tante, ma tante, e questo significa che a volte deve rischiare in più in su e in giù, ce l'hai dei problemi. Fatto 21 tiri porta al Milan. Ah sì, questo diciamo che abbiamo vinto per il secondo rigore, va bene, ognuno fa l'analisi. Mi pare che un piccolo ripasso dei fondamentali ogni tanto non guasti, sia pure da un personaggio di parte, perché Guardiola certamente lo è. Sto sfogliando tra le tantissime mail arrivate, sto sfogliando anche delle statistiche interessanti, perché per esempio il Barcellona è alla quinta semifinale consecutiva ed è un record eguagliato, c'era riuscito soltanto Real Madrid tra il 56 e il 60. Non perde da 16 partite di Coppa dei Campioni, 13 vittorie e 3 pareggi, e il Milan è invece alla sesta trasferta senza vittorie ed era successo solo tra il 96 e il 2000. I 14 gol di Messi sono un record in Champions. Non ho capito la scelta di Pato, e lei, domanda Stefano. Beh, insomma, direi anche meno, insomma, direi che l'ho capita anche meno. Oppure, non so, la si può capire facendo dei ragionamenti che portano a cattivi pensieri. Li lascerei perdere, anche perché c'è, al momento almeno, c'è una statistica dell'UEFA. Sul sito ufficiale dell'UEFA sono usciti i numeri, perché vedo altri ascoltatori. G. Veronese scrive: Guardiola ha visto 21 tiri in porta contro il Milan, ne ha visti solo 9. Facciamo così, prendiamo quelli che ha visto l'UEFA, no? E l'UEFA si è divertita a prendere tutti i numeri, cioè tutti i tiri in porta delle 4 partite di quest'anno tra Barcellona e Milan, cioè le 2 del girone di qualificazione e le 2 di confronto diretto. In 384 minuti, recuperi compresi, il Barcellona ha tirato in porta 62 volte e il Milan 9, e questo già mi sembra una cosa molto sorprendente. Però quello che diventa sbalorditivo, secondo me, è che il Barcellona ha segnato solo 8 gol su 62 tentativi, mentre il Milan ha una percentuale pazzesca di 5 gol, perché ha segnato 5 gol, su 9 tentativi, quindi ha una percentuale che è superiore al 60%. So che i numeri, poi numeri come questi lasciano il tempo che trovano, perché in semifinale c'è il Barcellona, però ammetterete che sono abbastanza sorprendenti, e chiamano in causa magari anche qualche analisi sul fatto che il Barcellona non è più la macchina perfetta che a un certo punto era. Scrive per esempio Luca Cereda, una mail appena arrivata: al Barça di oggi mancano i tempi, l'anno scorso era un'orchestra perfettamente sinfonica, oggi chi deve supportare l'azione a centrocampo o in fascia arriva sempre un filo più tardi, così Messi invece di sublimare il lavoro altrui spesso deve fare da sé. Mi sembra un'analisi perfetta, con un'eccezione direi, che è Dani Alves. Il Dani Alves di questi momenti, di questo periodo, di sera ha giocato una partita semplicemente pazzesca per intensità, per qualità, per spessore, per tutto. Se non esistesse il fenomeno in campo, ieri sera Dani Alves sarebbe stato certamente il migliore in campo. Cambiamo un attimo capitolo, giusto per allargare un pochino il fronte. Andiamo su quello juventino, perché ieri Conte ha fatto un discorso alla squadra da Full Metal Jacket, no? Che nella parte audio di cui disponiamo, che adesso vi faccio ascoltare, è perfetto. Nella parte invece riportata dai giornali mi sembra che abbia un paio di espressioni, insomma, non proprio perfette, non proprio di grande gusto. Lo decidiamo dopo averle sentite, ovviamente, averle lette. Conte: se dovessimo trovare una squadra che si dimostra sul campo più forte, noi dovremmo essere i primi comunque ad applaudire e a congratularci. Abbiamo la fortuna per quest'anno di non aver ancora visto nessuna squadra contro di noi gioire, facciamo dei scongiuri, però questo va dato grande merito ai ragazzi che dal primo giorno hanno mostrato grande disponibilità nei miei confronti, nei confronti della società. Abbiamo avuto la fortuna di trovare dei calciatori, sia quelli vecchi che è arrivato, che comunque voleva fare qualcosa di importante, ecco, e dimostrare che erano calciatori da Juve. Leggevo sulla Gazzetta di stamane che intanto ci sono dei, a proposito di numeri, ci sono dei numeri molto interessanti che riguardano la Juventus di Conte, e cioè il fatto che corrono indubbiamente più degli avversari, e questo lo si vede a occhio nudo, ma corrono soprattutto anche alla distanza. Pensate che la Juventus ha segnato 16 gol nei primi tempi e 33, e cioè più del doppio, nei secondi tempi. Allora, il dato è diventato insomma molto visibile, no? Molto riscontrabile nelle due ultime partite, perché sia l'Inter che soprattutto il Napoli sono state battute a gioco lungo, proprio prendendole alla gola, no? Alla forza, con questa forza della agonistica totale e soprattutto prolungata. Questo poi ha portato Conte ad un paio di espressioni, cioè voglio vedere tutti i miei giocatori con la bava alla bocca. Boh, insomma, sì, questa direi che ci può stare. Stava catechizzando i suoi a non avere più cali di tensione come quelli avuti col Chievo, ha citato queste partite, Bologna, eccetera. Ma poi ha detto che se il Milan deve vincere lo scudetto dovrà sputare sangue fino all'ultima partita. Io sinceramente trovo che questo genere di espressione, già in un mondo in cui, no, in questo panorama in cui si tende un tantino a esagerare, e poi ci sono gli psicolabili che certi messaggi li traducono nella maniera che sappiamo, boh, insomma, forse si potrebbero evitare. Paolo, Brescia, buongiorno. Buondì, signor Garanzini. Sono Paolo da Brescia, sono tifoso juventino. Domenica ero allo stadio a vedere Juve-Napoli, e ovvio che dalla televisione e dallo stadio vedere una partita sono cose totalmente ben diverse. Lo stadio, sì, stupendo, è stata una gran bella festa. Ho fatto fastidio gli insulti tra le due tifoserie, però va bene, a me non me ne frega niente, vado a vedere la mia Juve e del resto non me ne frega niente. Però ho visto una Juve straordinaria, un Marchisio strepitoso. Per quanto riguarda la partita di ieri, io le ho viste tutte e due, quella del Milan, e devo dire che io ho tifato ovviamente Barcellona, io sono purtroppo antistifoso, sono tifoso della Juve, degli altri non mi interessa, però... ho sentito la disamina dei giocatori del Milan, ho sentito quello che ha detto Zlatan, di quello che dicono quando va a giocare Mourinho, è una vergogna. Il Milan, tra la partita di andata e di ritorno, ha fatto 5 tiri in porta. Paolo, non hanno la cultura invece che hanno dimostrato alcuni esponenti juventini, a cominciare la Marotta, quando si crede di subire un torto, no? E quindi cosa vuole? Li compatisca. Senta, ho sentito un'espressione sua prima che mi ha fatto correre ad aprire la Gazzetta dello Sport di stamane. Lei ha detto: io vado a vedere la mia Juve, del resto non me ne frega niente. Legittimo, per carità. Io credo che sarebbe ora però che anche del resto cominciasse a fregarci qualcosa. Rubrica Porto Franco di Franco Arturi, una lettera di stamane firmata Giovanni Graziano. Sono un disabile con una invalidità riconosciuta del 74% tifoso del Napoli. Domenica ero a Torino, allo Juventus Stadium. Siamo arrivati intorno alle 18, ma il parcheggio del settore ospiti era chiuso in totale assenza di forze dell'ordine. Con un centinaio di tifosi napoletani fuori ad aspettare l'apertura, è scattata la caccia all'uomo con lanci di bottiglie e cariche da parte degli juventini. Con un pugno mi hanno rotto un dente, gli occhiali e lesionato lo zigomo, mentre urlavo invano che ero invalido. Io, a differenza degli altri, non potevo scappare perché la malattia non mi consente di correre. Ho denunciato tutto questo alla polizia, ma credo che di queste cose si debba parlare e non lasciare che atti così vili rimangano nascosti prima che ci scappi nuovamente il morto, magari all'Olimpico, per la finale di Coppa Italia. Franco Arturi gli risponde splendidamente: mi spiace molto, caro Giovanni, la tua lettera dovrebbe deprimere ogni persona di buona volontà, a partire da quelle che operano nel calcio. Purtroppo, aggiunge, molte altre testimonianze dolenti e giustamente indignate sono giunte da parte napoletana su quella serata. Una delle cose tristissime è che gli incidenti non hanno ricevuto la pubblicità che meritavano, in parte per l'orario serale della partita, in parte per l'assuefazione dell'ambiente a questi piccoli grandi misfatti. Questo clima e la necessità di modificarlo drasticamente restano, a mio avviso, conclude Arturi, la priorità culturale e organizzativa del calcio italiano. Forse adesso riesce a capire perché quel non me ne frega niente che lei ha pronunciato mi ha, come dire, fatto scattare, se non altro, l'urgenza e la necessità di leggere questo documento. Gustavo, provincia di Treviso, buongiorno. Buongiorno. Dica. Allora, io voglio dire qualcosa di Messi, no? Sì. Quando si fa i gol, a me mi hanno insegnato che i gol sono i gol, no? I gol sono amori, no? Che lo fa sul rigore, che lo fa su punizione, che lo fa come lo fa, non dovremmo dire che Messi ha fatto il gol perché l'ha fatto il rigore. Sempre sono gol, è un grande campione. Dobbiamo anche imparare come ha fatto il pubblico del Barcellona, che ha fatto un applauso a Seedorf, e non solo a Seedorf, altri giocatori che hanno giocato nel Real Madrid. È vero o no, signor Galassini? Io sì, lo penso sempre a lei. Ma guardi che non, cioè non sarò certo io a eccepire su Messi, al contrario, statisticamente lui contro le squadre italiane ha segnato fin qui solo su rigore, ha segnato 3 volte, uno mi pare che l'abbia anche sbagliato, no? E poi è stato... No, oppure l'ha segnato e gliel'ha fatto ripetere nell'eliminatoria contro il Milan. Comunque non è mai riuscito a segnare su azione, ma sono... per me non è una diminuzione, questa è soltanto una curiosità. Ripeto, nella partita di ieri sera, se non c'è Messi, se al posto di Messi c'è Sanchez, c'è Villa, no? Perché è infortunato di lungo corso, c'è Teglio, insomma, c'è un altro attaccante, oppure gioca Fabregas più avanzato. Scelga lei come meglio crede. Io credo che la partita sia completamente diversa, perché si è visto chiaramente qual era. Questo non sapevi mai da dove sbucava, da dove usciva, da che parte arrivava, se davanti, di dietro. Ma non solo, ma io non ho mai visto davvero un fuoriclasse, perché qui è chiaro che è di questo che stiamo parlando. Non ho mai visto nella storia un fuoriclasse andare a strappare palla con convinzione come fa lui. Cioè quel pressing che ha fatto su Mexès sulla linea di metà campo e gli ha portato via il pallone. Mexès ha fatto una sciocchezza, d'accordo, però non è un peso piuma Mexès, no? E non è che Messi gli abbia fatto fallo, no, è andato a pressarlo con la convinzione di chi la palla gliela vuol portare via, gliela portata via davvero, e da lì è venuta l'azione del primo gol. Io nella storia ricordo Cruyff, forse, in un calcio diverso, ricordo Cruyff, che era uno che rientrava molto e che il tackle, quando lo portava seriamente, non per fare il cinema o per passare da giocatore che si sacrifica, però con l'intensità di Messi a recuperare palla, mai, credo proprio mai nessuno. 4 aprile di Nicola Filippone. Ieri. 4 aprile 1948, Parigi, Stade de Colombes. L'Italia torna nello stadio dove 10 anni prima ha vinto il secondo titolo mondiale, sfidando in amichevole la Francia. In panchina siede ancora Vittorio Pozzo, in campo invece è cambiato tutto. Ci sono 8 undicesimi del grande Torino, più il debuttante Eliani della Fiorentina, e i milanisti Annovazzi e Carapellese. Gli azzurri esercitano una supremazia evidente che si traduce in una prestigiosa vittoria per 3-1, con doppietta di Carapellese e gol di Gabetto. Le 3 reti italiane arrivano in 7 minuti, tra il 31esimo e il 38esimo. I francesi riescono ad accorciare le distanze al 71esimo, con un rigore trasformato da Barat, dopo che Bacigalupo era riuscito a parare il primo tiro, ma a giudizio dell'arbitro inglese Ellis, muovendosi troppo presto. Sto leggendo questa agenzia che arriva da Londra, in cui De Jong, c'è una valutazione di De Jong sul conto. De Jong è un giocatore del Manchester City, tra l'altro uno scarpone storico, un giocatore che ha anche rotto gambe, se non ricordo male, lo scorso anno, quindi non è certamente farina a fare ostie. Però questo intervento sul suo compagno di squadra Balotelli, mi sembra un'entrata a piede alto delle sue, no? Dice De Jong: certe volte Mario si comporta da idiota, altre invece come un genio. Ci sono questi due aspetti nella sua personalità, ma troppe persone si aspettano che lui faccia l'idiota, col risultato che Mario si sente in dovere di accontentarli. Non lo so perché, ma mi sembra un'analisi così che ci può stare. Sta vivendo una relazione affettiva felice, e questo è importante, ma anche lui sa di dover essere più concentrato, e meno male che abbiamo un manager, cioè Mancini, che sa tenergli testa, altrimenti Mario avrebbe deragliato già da parecchio tempo. Tocca, mi pare, a Tiziano dalla provincia di Bologna. Buongiorno. Buongiorno, tutti. Solo una considerazione, anche relazionandomi alla statistica dell'UEFA che ha citato prima, e anche in considerazione del fatto che da piccolo mi dicevano che per beccare i rigori bisognava andare in area. Siccome il Milan non c'è andato per niente in area, quindi non poteva stare a rigori, quelli che ha preso nell'arco delle quattro partite, il Barcellona invece sono stati tre, a un certo punto, e qui tocco un altro argomento, Allegri non poteva suggerire di cominciare a tirare fuori da fuori area, magari non so, un tiro toccato da qualche difensore. Ma chi ce la faceva, Tiziano? Chi ce la faceva? Insomma, secondo lei, deve essere un allenatore a ordinare un giocatore di tirare da fuori? Cioè, io credo che non sono mica marionette i giocatori, dai. Sono gli allenatori di oggi che tendono a farci pensare che è così, no? Con quel loro frenetico agitarsi ridicolo, più delle volte ai bordi del campo, nella cosiddetta area tecnica. Ma il giocatore fa quello che si sente, fa quello che può. Insomma, non è un appunto una marionetta che l'allenatore tira il filo, adesso tiri, adesso dribbli, ma insomma, è la PlayStation quella, no? Credo che se un giocatore non sta facendo fatica, e quelli del Milan facevano fatica, perché qual era, io già detto prima, delle tre partite in sei giorni eccetera, adesso non voglio rimanerla su questo, che pure è importante e forse decisivo. Però riprendere la palla al Barcellona è sfiancante, cioè è difficile, tant'è vero che un po' tutte le squadre, non solo un Milan un po' stanco come ieri, un po' tutte le squadre all'inizio riescono a ripartire, a mettere in difficoltà, cosa. Mano a mano che il tempo passa, la lingua ce l'hai sempre più di fuori, perché per andargli a riprendere la palla, per interrompergli quel tic-tic-toc, di fatica ne devi fare un sacco, corri più tu dietro la palla a cercare di riprendere, anche non loro, perché loro te la stanno facendo correre pur muovendosi a loro volta. Luigi, provincia di Bari, buongiorno. Buongiorno, senta, chiamo per una domanda e un appello. La domanda è di carattere, diciamo, di servizio. Per la finale di Coppa Italia ho sentito che ci vorrà la tessera del tifoso per poter assistervi. Ma va bene qualunque tessera del tifoso? Io ad esempio ho quella del Bari. Luigi, posso comunque acquistare non credo. Un biglietto? Non credo, no. Non credo proprio, Luigi. Le faccio rispondere un giorno o l'altro da Marco Bellinazzo, che è il nostro diretto interessato, sempre che nel frattempo De Laurentiis non abbia cambiato il regolamento, perché prima ha provato a cambiare la sede della finale. Il calcio sta cercando di cambiarlo e di migliorarlo sin da quando c'è entrato, e questo è noto. Ma poi ha cercato di cambiare la serie finale, adesso probabilmente cambierà anche queste norme. Al momento si sa soltanto che la Lega ha detto che i dettagli sui biglietti della finale di Coppa Italia, mi informa per fortuna tempestivamente Franco Piantarida di là, i dettagli sui biglietti arriveranno dopo Pasqua, e quindi è questione di aspettare una settimana e le sapremo rispondere. Luigi, grazie. Andiamo da Angelo in provincia di Lucca, buongiorno. Buongiorno a lei, Garanzini. Dica. Una breve considerazione molto veloce su Milan-Barcellona. Io non sono un tifoso del Milan, sono un tifoso dell'Inter, questo mi impedisce di dire che il Milan nell'insieme dei 180 minuti abbia giocato due partite dignitose sicuramente, ma che però ieri sera hanno poi alla fine evidenziato una capacità veramente tra virgolette mostruosa del Barcellona di fare girare a vuoto le squadre, quindi quei tocchi molto questa è la loro forza, questa è la loro prima forza, è quella lì. Sicuramente, così come credo che poi la partita possa essere sintetizzata nelle parole di Nesta quando dice loro hanno messo, fa 70 accelerazioni a partita, certo. Al di là che il fatto che poi segni o non segni, la differenza uno come Messi che va a pressare a centrocampo ex e gli ruba il pallone, pazzesco. Denota una cosa dove credo da sportivi bisogna solamente alzarsi in piedi, applaudire una squadra come quella e ammirarla. Solo che in questo solo che in questo momento, curiosamente, cioè è più da applaudire Messi che il Barcellona. Ora non è che uno fa fatica a applaudire Messi, capiamoci, però il Barcellona ha avuto dei momenti migliori, ha avuto dei momenti esteticamente perfetti che adesso non ha. Poi c'è un ascoltatore che scrive da Varese, Giuseppe, madridista di Varese, si qualifica e dice: il vero Barça lo rivedremo tra 50 giorni, ahimè, e cioè ha fatto i conti da qui alla finale. Io penso che in effetti il Barcellona in finale ci andrà, perché credo che il Milan fosse un ostacolo più alto di quello che invece non sarà rappresentato dal Chelsea in semifinale. Dopodiché ci troverà quasi certamente il Real Madrid, in questo caso secondo me stavolta sarà favorito il Real Madrid, ma il Real deve ancora fare attenzione alla semifinale però, perché col Bayern io credo che se la debba, cioè che il Bayern credo che se la possa giocare col Real. Real favorito, ma aperta comunque come sfida. Chiudiamo con Massimo, provincia di Verona, buongiorno. Sì, buongiorno, senta, sentivo che state parlando di Messi, volevo fare una piccolissima considerazione. In queste due partite ho fatto a guardare Messi quando non aveva la palla. Era incredibile come si guardi attorno, guardi la palla, si guardi attorno. In 5 secondi si è guardato attorno, ha guardato la palla almeno 10 volte. Cosa vuol dire questo? Che quando riceve la palla sa già perfettamente dove sono gli altri, non ha bisogno di perdere tempo a alzare la testa e guardare, a quel punto dopo si butta tutto all'interno e trova subito gli spazi, certo. È da guardare quando non ha la palla, perché è uno spettacolo. Sono d'accordo con lei, è da guardare anche quando non ha la palla, nel senso che quando ha la palla è troppo facile guardarlo ed è troppo piacevole, è troppo divertente, ma anche quando non ce l'ha comunque è una lezione. Ma come si può fare cultura sportiva nel calcio, domanda Giancarlo, quando anche le persone radiate fanno gli opinionisti TV? Io aggiungo, e hanno rubriche su quotidiani. Faccia un po' lei, Giancarlo. Questo è il paese e questi sono i parametri, no? In voga. Grazie a tutti gli intervenuti, grazie a Nicolò Rinaldi in regia, grazie a Franco Piantanide in redazione. Buon pomeriggio.